purtroppo sì, no, nel senso che comunque noi abbiamo anche cercato, noi siamo una compagnia di teatranti e abbiamo fatto una festa con un sacco di amici, ma perché ci volevamo divertire senza dover dimostrare niente a nessuno. I suoceri non c'erano più né da una parte né dall'altra, quindi quello in parte vi ha meno condizionato. Grazie Tiziano. Angelo. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Lei come si è sposato? Io mi sono sposato il 29 di settembre, sono di origini napoletane e la mia famiglia d'origine voleva un matrimonio molto pomposo, con diverse decine di migliaia di euro a budget. Ecco perché è vero, dalle vostre parti diciamo è il luogo eccelso in cui le famiglie impongono il matrimonio pesante di presenza. Sì. C'è bisogno della villa, c'è bisogno del gruppo musicale. C'è ecco, ma come avviene questo ricatto? Si mettono, come ha detto la signora prima, a sbattere i piedi le madri, i padri si sentono traditi. Uno non può fuggire da questa cosa. Io sono riuscito a scappare perché ho il mio brutto carattere. Il babbo non mi ha parlato per 6 mesi. Ma chi se ne importa? No? Io, ecco, è più pesante fare il debito con una banca e poi doverlo pagare per 7 anni, secondo me. Esattamente. La scelta che ho fatto con mia moglie è stata proprio questa, di sposarci dentro le nostre possibilità. Quindi c'è ancora speranza che qualcuno prima o poi infrangerà questo muro indissolubile delle usanze familiari. Le posso dire per esperienza personale che è veramente difficile. Il babbo nel giorno del matrimonio, fino a che non si è visto che c'era da mangiare per tutti gli invitati, è stato nel panico più assoluto. Si è rilassato solo quando ha visto... Ma perché questo è un problema per il figlio, se il padre va nel panico? Guardi, per me non è stato un problema, nel senso l'ho gestito. Beh, sono contento. Sono contento, mi dà speranza sentire persone che ancora riescono a dimostrare che il cordone ombelicale con la famiglia d'origine può essere facilmente reciso e poi i genitori possono disperarsi, strapparsi i capelli, fare ricatti, ma i figli possono godersi i loro soldi, pochi o tanti che siano, come meglio credono. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Melog. La realtà condivisa. Scegli con noi la location ideale per il ricevimento del tuo matrimonio. Ecco le nostre offerte. Il castello. Per un matrimonio intriso di magia e di sogno. Mura e torri merlate, ponti levatoi, imponenti portoni, scale. Ambienti che pullulano di storia e leggende, ravvivati dalle fiamme di grandi cammini in pietra. Per un matrimonio da fiaba. Il Loft. Per coppie anticonformiste. Uno spazio insolito ricavato da vecchi edifici industriali, collocati nel centro della città, in un unico grande ambiente essenziale e minimalista, se non esistenzialista. La Cascina Rustica. Per gli amanti della campagna. Per un matrimonio informale agreste, stile picnic, con la presenza di diversi barbecue per la cottura della carne alla brace, del pesce. Ci sta scrivendo un ascoltatore indignato. Ma voi reggereste agli sguardi di sprezzo di concittadini per il resto della vita? No, non resistevo, infatti ho cambiato città. E poi, la necessità di vivere un sogno almeno una volta nella vita. Sono sogni quelli di cui stiamo mandando i patetici spot. Anche per i vostri genitori, ma perché il sogno dei genitori è diventare l'incubo dei figli. Io ripeto, il senso di questa trasmissione è un'istigazione alla ribellione. Tutti coloro che devono subire, madri che sbattono i piedi, padri che si rifiutano di parlare di mangiare per mesi solamente perché non accettano di fare il grande matrimonio dimostrativo a tutta la cittadinanza, la fratellanza, la sorellanza, gli amici degli amici, i colleghi di lavoro, che loro sono una grande famiglia e si spendono quei soldi, ma se li bevono, ma se li giocano al casinò, ma ci fanno quelli che vogliono, ma non li spendono per quella che deve essere una tradizione intangibile della famiglia. Ci eravamo interrotti con Angelo che era riuscito a fare il grande passo, era riuscito a liberarsi dal giogo della tradizione familiare, ma come ha risolto Angelo il suo matrimonio a basso budget? Allora, ho risolto in questo modo. Mia moglie ha un fisico straordinario e quindi ha comprato un vestito molto semplice che sembrava una dea, almeno ai miei. Quindi era bella di natura, chi è bella di natura bella non di ha bisogno. Natura, e quindi con uno straccettino euro... comprato alla bancarella alle cinesi sembrava una dea. No, vabbè. Non proprio, però diciamo più o meno ha speso 1000 euro compreso di 1000 euro è nella media, scusi, anche la peggior racchia con 1000 euro sembra, sì, bella, però scusi, però compreso di ogni cosa, compreso di acconciatura, sopra e sotto, tutto completo, scarpe, tutto completo. Io ho riciclato un vestito già usato perché l'anno due anni prima ho fatto da testimone a una mia parente e quindi ho riciclato quel vestito indossato una sola volta.